Alessandro, è un anno che ti ascolto e pensavo con questa voce, bellissimo, caspita, oggi ho guardato su internet e t'ho visto, mi è caduto un mito. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. L'ho detto mille volte, cara ascoltatrice, lo ribadisco, mai fidarsi delle voci, mai affezionarsi alle voci. Poi dopo uno va a vedere, non c'è corrispondenza e crollano i miti, questo è. Beh, cari ascoltatori, ben ritrovati, sembra quasi una ripartenza non tanto per il 3 giugno ma per il ponte, eppure siamo di mercoledì. Con Uno Nessuno 100 Milan siamo in diretta fino alle 11 e siamo con Carmelo Lauricella, regia. Vai, parti con gli applausi, dai, mai te li chiamo subito così. C'è Luca Cremonese al tuo fianco e la nostra redazione Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Signori, mercoledì d'eccezione perché abbiamo anche sbrandato Mario Calabresi. Eccolo qua, Mario, buongiorno. Buongiorno, sbrandato, non so cosa vuol dire. Beh, io insomma, mi alzo presto tutte le mattine, per cui qui sei già tardissimo. A che ora ti alzi di solito? A che ora ti alzi di solito? 6:45. Così, 6:45, anche se esatto. Non c'è un motivo, un appuntamento, no, 6:45. Mi sveglio, 6:45. L'Italia che non è, c'è gente che si alza ben prima, sì, diciamo, pieno di gente che si sveglia alle 5, certo. Alle 5 e mezza. Pensa al nostro Simone Spezia. Sei tu che adesso quando... che stai a casa ti svegli un quarto d'ora prima dell'inizio della trasmissione. No, no, non è vero, non è vero. Guarda che adesso, da adesso c'è anche la diretta Facebook, sono qui con i miei capelli improponibili e con insomma, okay. dalla ridotta di Viale Monza sono qui in diretta anche video su Facebook. E, allora, che dire, Mario, abbiamo tante cose da raccontare oggi. I numeri sono i soliti, 8-0. 0024 0024, chiamateci oppure 349 238 6666, scriveteci o anche WhatsApp. Vai Carmelo, vai. Enthusiasm about the future. Perché voglio anche un po' stuzzicarlo oggi, Mario Calabresi, stuzzicarlo sugli elementi che sono fondanti dell'attualità politica, a cominciare dalla manifestazione. La manifestazione di ieri, sulla quale ci sono molte polemiche, diciamo il centrodestra in piazza. Ho letto questo titolo da qualche parte, il popolo di centrodestra si è stufato. Ti faccio sentire un paio di voci, Mario. Salvini e Meloni, vai Salvini. Una giornata di proposta, innanzitutto perché domani finalmente cadono i muri fra città e fra regioni, si può tornare a lavorare, a viaggiare, a ricostruire, e poi per portare sui tavoli del governo le proposte di troppi italiani dimenticati. Oggi sono la in piazza per Salvini è soprattutto una giornata di proposta. Sentiamo invece Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Vogliamo dare voce a un'Italia che non intende arrendersi, a un'Italia che non ci sta a vedere un futuro di declino per colpa dell'emergenza coronavirus, dal nostro punto di vista anche per colpa delle scelte sbagliate del governo. Siamo a disposizione per dare una mano come dall'inizio allora, di questa allora, emergenza. Proposta, poi prima abbiamo sentito Tajani, proposta e collaborazione. Però Mario, tutti si sono concentrati, esondano le polemiche sulla questione, l'assembramento troppo vicini, via le mascherine. Tu vedi l'aspetto politico preminente o l'aspetto... Devo dire questo... c'è stata tutta una fase di questa, di questa pandemia, del lockdown, in cui Salvini aveva trovato un suo aveva trovato uno spazio politico di proposta. Cioè, quando il governo, soprattutto all'inizio, era titubante e parlava di mettere come aiuti e sostegno ai lavoratori, all'economia, alle aziende, ai negozi, cifre che erano assolutamente non sufficienti, Salvini faceva da pungolo e diceva dei numeri e proponeva delle cifre decisamente più alte. E poi alla fine invece il governo, anche Poi alla fine, grazie all'Europa, che ha fatto due facce completamente diverse. All'inizio negava il problema, ci trattava come se fossimo un popolo di furbi che stava cavalcando il virus. Poi alla fine invece, oggi la quantità di soldi che arrivano in Italia sono tantissimi. Quindi da questo punto di vista l'oggetto su cui Salvini si basava è un po' venuto meno. Poi lui era molto anche su, però riapriamo le aziende, facciamo tutto. In un certo senso adesso tutto questo è accaduto. Il problema che abbiamo è che quei soldi siano spesi bene, perché ricordiamoci che noi stiamo aumentando anche il nostro debito, e quindi fare debito per fare per buttarli via sarebbe terribile. E quindi ci vogliono proposte su quale tipo di Italia. Ieri io quello che ho visto, si parla dell'assembramento, quell'assembramento lì è poi le senza mascherine, come quell'altra piazza Arancione, però diciamo quella là era una piazza folcloristica, ma la piazza di Milano era folklore. Adesso quella facciamo sentire qualcos'altro, perché quella la teniamo a parte. Questa invece in comunque era una piazza politica. Sì. Detto questo, io non sono riuscito a capire esattamente che cosa, cioè mi è sembrato un modo di dire ci siamo vivi, scendiamo in piazza contro il governo. Ma che cosa oggi il centrodestra farebbe per l'Italia con i soldi che sono arrivati diverso da quello che sta facendo il governo, io non sono riuscito a capirlo. O che arriveranno, perché sai che poi sull'Europa c'è grande tema. Io leggo molto, con molta attenzione Federico Fubini in questi giorni sul Corriere della Sera a dire che poi arriveranno a babbo morto, arriveranno a partire dall'anno prossimo per una quota marginale del PIL. Insomma, qualcuno comincia a dire che l'Europa sì, che ha messo in campo grandi sforzi, non dico che il diavolo ci sia nei dettagli, però un po' arriveranno con calma questi soldi. Tra l'altro oggi leggevo sul Corriere che si parla già del prossimo commissario, si pensa a Cottarelli commissario per questi. Ma perché dobbiamo fare un commissario su tutto? Lui stesso dice non so se serve. Esatto. Perché serve un commissario per gestire i soldi? Quando non sai cosa fare, prima si diceva fai una commissione, adesso fai un commissario. Abbiamo avuto durante il Covid. Ci vuole il commissario per l'Europa. Vabbè, visto che l'hai evocata la piazza Arancione, io non ne volevo parlare tanto per non dare tantissimo spazio. Ma però lasciala anche fuori allora. Però ti devo far sentire una voce di una signora, io non lo so, perché questa signora commenta così la telefonata tra Conte e Bill Gates. Guardate che in 20 secondi mette Conte, Bill Gates, il mercurio nel sangue, il 5G. Ti giuro, me l'hanno fatto vedere le mie figlie. No, devi sentirla. Dicendomi, vai, non papà, so chi guarda sia questa pazzi signora. Ci sono in giro. Vabbè, dai, senti, quando vai. Quando Conte telefona a Bill Gates, sulle nostre spalle, prendendo 140 milioni, decide di iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate al 5G e diventeremo dei piccoli robot. Le vene se collegate al 5G. Mercurio. Ormai ci sono cose. Ma capito, per ammazzarmi basta una temperatura piazza, era abbastanza alta, credo già. Per ci la sono signora, cose, sì. Cose che si sentono, che fanno parlare in piazza, che sono oltre qualunque tipo di ironia. Se uno avesse voluto mettere insieme le cose surreali, diceva: mettiamo Bill Gates, non ha messo Soros, mettiamo il mercurio nelle vene, mettiamo il 5G, ci controllano, poi schiacciano un pulsante, siamo morti. È proprio è stupendo, diciamo è così, una trama di un film di fantascienza. Chiamate gli infermieri. Asimov avrebbe creato un gran film, un gran libro da questo. Vabbè, c'è questo, dai, abbiamo derubricato. Però se volete, chiamateci su questo tema. C'è un altro grande tema, che è il tema che abbiamo affrontato già l'altra volta, Mario, no? Che è il tema degli Stati Uniti. Posso dirti una cosa? A me piacerebbe capire una cosa, mi permetto, dagli ascoltatori. Quale dovrebbe essere la proposta del centrodestra rispetto a quello che sta facendo il governo? Cosa bisognerebbe fare? Che cos'è utile in questo momento per ripartire davvero. Perché in un certo senso tanta gente sta ripartendo con questa idea, poi ne avete parlato da te lunedì e poi ha preso piede, lo ha detto Zangrillo. Zangrillo lo dice sempre un po' alla maniera di Zangrillo, che sì, cioè sì, in un modo molto colorato, così... sono più però scienziato io in questo altri, momento è vero che i contagi scendono, la gente non entra più in terapia intensiva e questo fa sì che tu vedi di nuovo la gente per la strada, i negozi, le code, cioè c'è un movimento di ripartenza, si ricomincia a vendere, forse ci avviciniamo a un'estate che può somigliare alle estati del passato. Mm-hmm. E non ci saranno pochi o turisti o non sappiamo quanti, ma è vero anche che gli italiani non andranno fuori e resteranno, sì, in Italia. E quindi in un certo senso alcune cose stanno ripartendo e forse ripartiranno più veloci di quanto immaginiamo. Ma però le persone che cosa pensano? I tuoi ascoltatori che cosa pensano che si dovrebbe fare di diverso da quello che fa il governo? Mm-hmm. Eh beh, questo è interessante. Bisogna capire anche che cosa si potrebbe fare per gli Stati Uniti. Ci pensano persone, come dire, che hanno le leve del potere più importanti di noi, ma a me impressiona. Io guardo tutto quello che succede negli Stati Uniti, ti voglio sottoporre due riflessioni. La prima è quella di Trump, il presidente americano Trump, perché ormai lì la situazione dalle proteste per l'uccisione di George Floyd è diventata una situazione quasi degenerata, con saccheggi dappertutto. E tra l'altro oggi Roberto Saviano su Repubblica dice: attenzione, perché il saccheggio è proprio il regalo a Trump, è la delegittimazione delle ragioni politiche e sociali della protesta. Totale. Ma sentiamo Trump che dice: Bibbia e fucile, vai Trump. That is why I am taking immediate presidential action to stop the violence and restore security and safety in America. I am mobilizing all available federal resources, civilian and military. L'annuncio per mobilitare le risorse e anche mobilitare l'esercito. Dico, ti faccio sentire anche un'altra voce, Mario, poi voglio sentire cosa ne pensi. È la voce del fratello di George Floyd, che ha arringato con un megafono la folla. Fallo partire, Carmelo, perché dice: non sono lì, e urla: che cosa state facendo? Urla due volte, lo sentiamo. What are y'all doing? What are y'all doing? Y'all doing nothing. Because that's not gonna bring my brother back at all. Insomma, niente porterà in vita mio fratello, soprattutto queste cose, certo. Mario, qui i saccheggi hanno ormai preso piede, sì. Ormai sembra più il saccheggio più che la protesta per Floyd. Sì, no, è drammatico perché ci sono state tantissime, alla fine ha oscurato invece tantissime proteste pacifiche con folle di persone, soprattutto giovani, che protestavano contro la violenza che c'era stata della polizia, la violenza delle istituzioni. Il problema è che quando invece la protesta diventa violenta, allora diventa ingiustificata e distrugge tutto e aiuta quelli che sono i tuoi nemici della protesta, perché da questo punto di vista Trump se ne avvantaggia, perché di fronte alla distruzione, ai negozi saccheggiati, a quel punto legge e ordine. Sì. Mi ha colpito una cosa, una persona, il capo della polizia di Houston, un capo della polizia texano, intervistato da Christiana Manpur su CNN, ha fatto un discorso bellissimo. Ha detto: chiediamo, noi dobbiamo tenere l'ordine, ma lo teniamo con la legalità, con la serietà, non abbiamo, la polizia non è razzista, non abbiamo, però abbiamo bisogno di leadership e non di un presidente che getta benzina sul fuoco, perché noi poi ne mettiamo le nostre vite per tenere poi ordine. Cioè, incredibile, dal Texas un capo della polizia che dice: è inutile questo tipo di provocazione. Ma siamo in campagna, sì, elettorale, e Trump sta giocando tutte le cose simboliche dell'America. Bibbia e fucile, con cui lui fa questa cosa e mostra la Bibbia, è proprio i pionieri con i carri che andavano alla conquista del West, cioè una cosa che tocca la pancia, sembra Clint Eastwood, tocca la pancia, le corde profonde del suo elettorato. Così ma come, secondo attento, te come nei inciderà giorni scorsi, come inciderà questo con la campagna elettorale? Perché a novembre si vota. Io credo che per come sta girando a questo punto aiuti Trump, perché ricordatevi solo una cosa, Trump non deve aumentare i suoi voti, deve semplicemente tenere i voti dell'altra volta, ok? Mm. E per tenere i voti dell'altra volta deve galvanizzare la sua parte e dirgli: guardate che c'è una battaglia storica, di fronte a noi ci sono quelli che saccheggiano, i violenti, gli estremisti, i socialisti, perché guarda che in America socialista è uguale peggio a dire certo, comunista. Sì. Ci sono quelli che vi vogliono levare i soldi, la proprietà privata, quelli che vogliono entrare nelle vostre case, eccetera, eccetera. Io sono l'argine a questo. Sì, sì. E questo è un discorso molto forte e molto potente che lo aiuta. E la Bibbia, io il fucile e la Bibbia, esatto, sono gli argini. Però torniamo in Italia, caro Mario Calabresi, noi abbiamo seguito questo caso che è arrivato a compimento almeno per il primo grado di giudizio, il caso di Prato, con questa donna che dava ripetizioni a un minorenne e ha avuto rapporti sessuali, ha avuto un figlio con questo minorenne. È una vicenda con tante anche, come dire, sfaccettature da feuilleton che abbiamo raccontato varie volte. Torna con noi l'avvocato della famiglia, della donna e del marito, Mattia Alfano. Buongiorno avvocato, perché come ci aveva promesso c'è stata la sentenza di primo grado. Buongiorno, buongiorno avvocato. Buongiorno Alessandro. Insomma, è arrivata la condanna per violenza sessuale nei confronti della donna che ha abusato, a questo punto si può usare questa parola secondo il tribunale, ha abusato. Questo è il capo di imputazione e quindi le sentenze si accettano, per cui chiaramente questa è la ricostruzione giuridica. È stato condannato anche, la pena è stata quanto? 6 anni in primo grado, ovviamente, sei anni e mezzo per la signora e 1 anno e 8 mesi per il marito, a cui sono state riconosciute le attenuanti di aver agito per particolari motivi di ordine morale. Io ho sentito solo delle frasi della madre invece minorenne molto dure, cioè mio figlio è stato come dire circuito, non vuole sapere nulla di questo bambino, di questo figlio, cioè gli è stata distrutta la vita, ha detto così. Queste ovviamente sono le parole della mamma che noi accettiamo anche per il ruolo che abbiamo, noi abbiamo avuto sempre un atteggiamento rispettoso e tale continuiamo a avere nei confronti della famiglia. Del ragazzo che ovviamente ha vissuto con comprensibile angoscia tutta la vicenda e a loro va tutta la nostra solidarietà, come abbiamo detto anche in serie di discussione. Da una parte c'è il giudizio morale e etico, dall'altra c'è il giudizio giuridico su cui noi abbiamo molto da dire, abbiamo detto molto in sede processuale e certamente una volta depositata la sentenza diremo altrettanto molto nell'atto d'appello e presenteremo, però ecco, non voglio commentare le parole di una mamma perché anch'io sono padre. No, perché certo che il tema si è detto molte volte, Mario Calabresi, fosse stata parti invertite, a sessi invertiti, nessuno avrebbe parlato cioè tutti avrebbero parlato di violenza sessuale, cioè se fosse stato l'adulto un uomo e il minorenne una ragazzina. Qui tu l'avevi seguita forse la vicenda da direttore, cioè che spazio bisogna dare a vicende del genere secondo te, Mario Calabresi? Ti faccio una domanda da giornalista, perché non gli è stato dato tantissimo spazio, forse in un certo senso per rispetto, perché questa storia a me sembra che abbia tante vittime. Il tribunale ha riconosciuto in primo grado che la vittima è il ragazzo che ha subito un abuso perché aveva meno di 14 anni. C'è poi un bambino, quello che è nato, che è un bambino che nasce con un problema importante poi da gestire nella vita. Il fratellino che ha 12 anni, io vedo come vittima anche quest'uomo che fa un gesto d'amore, che è quello di riconoscere un bambino che non è suo e che sa, si mette nei guai per questo, ma lo fa in un certo senso. Riconoscere un figlio che non è tuo, io credo che sia un gesto d'amore grande e importante. Certo, per la legge questo ha detto il falso, sì. Quindi viene condannato io, anche se gli, a lui danno infatti, infatti il padre, ecco, la figura più interessante, il padre, dico, ecco, l'ho chiamato padre perché l'ha cresciuto come padre il marito della signora, l'avvocato Alfano, condannato allora, per questo. Solo due spunti su questo punto, sì, l'avete chiamato padre e non è, secondo me il nome gli si ritaglia alla perfezione, la prima volta che mi hanno contattato, ci siamo parlati su WhatsApp e a me ha colpito che quest'uomo ha come immagine del profilo i due figli e così sono rimasti nonostante tutto quello che è piovuto nei mesi successivi. Cioè questa è una persona che si vede e è padre a tutti gli effetti di entrambi i bambini. Al di là di quello che può dire un test del DNA o quello che è l'esame biologico, io l'ho detto anche in sede di discussione. Si diventa padre con il DNA, ma si diventa padre anche con dei gesti di amore come quelli che ha fatto lui, certamente. Certo, e però è stato condannato. È vero, è stato così. Condannato per non avere detto, pur sì. Sapendo che non era figlio suo, che era figlio suo. Che reato è dal punto di vista tecnico, avvocato? È un reato molto grave, il 567 prevede pene addirittura fino dai 3 ai 10 anni, quindi sono puniti in maniera molto grave dal nostro ordinamento. Ma al di là di quella che è la considerazione giuridica, io mi permetto di lanciare uno spunto che avevo lanciato anche al Tribunale, ma che di fatto è stata disattesa. Noi abbiamo mosso ovviamente le nostre considerazioni fattuali, che ovviamente la sentenza di condanna ci ha dato torto da questo punto di vista e su questo non voglio toccare nulla. Però ho mosso anche delle considerazioni giuridiche che secondo me meritano uno spunto al di là della vicenda in oggetto, cioè che ha senso nel 2020 continuare a pensare a una incapacità assoluta di un ragazzo minore di un ragazzo, una ragazza minore di 14 anni e maggiore degli anni 16? Io ho presentato una questione di legittimità costituzionale, perché secondo me la nostra norma, che prevede un'inimputabilità assoluta, non è più al passo con i tempi rispetto a una società che con internet, gli smartphone e quant'altro dà certamente la possibilità ai ragazzi di avere una maggiore consapevolezza della sessualità, forse anticipata, sì. Però questo è il grande tema, diciamo, al momento le leggi sono rigide su questo, però tu Mario che ne pensi? Si parla tanto di giovani che sono, come dire, crescono prima, adesso forse il limite di 14 anni andrebbe abbassato. Guarda, non lo so. Devo dirti, non lo so, penso che comunque l'avvocato magari tocca un punto che può avere contenere dei principi di verità, ma immaginiamoci quale legislatore oggi direbbe mai che se, appunto come quando tu prima lo ribaltavi, un uomo, un maggiorenne va a un rapporto sessuale con una ragazza che ha meno di 14 anni e diciamo che questo per esempio non è punibile, viene fuori il finimondo. Nessuno fa mai niente di questo, perché abbiamo sentito rispondere anche a questa cosa qui. Noi non volevamo aprire, diciamo, le porte a una possibilità assoluta, quanto piuttosto superare la presunzione assoluta, che è una cosa diversa, cioè accertare, sì. Dare al giudice la possibilità attraverso gli esperti, psichiatri e quant'altro di accertare nel caso concreto grado di maturazione del soggetto, perché ci può essere il sedicenne che è maturo, caso, ma caso ci può essere anche il quattordicenne che è pienamente maturo, che e questi dati sono dati anche di politica criminale, cioè purtroppo assistiamo sempre più a reati anche gravi commessi da ragazzi inferiori dei 14 anni, su cui secondo me il nostro ordinamento è chiamato a dare una risposta. No, è chiaro, l'avvocato Alfano dice ci vorrebbe non una rigidità netta della legge, ma caso per caso valutare la maturità delle persone. Noi avvocato intanto la ringraziamo, vedremo, questo è il primo grado, l'abbiamo seguito, avvocato Alfano, grazie per essere stato con noi. Mario, caro Mario, no, sai che ti attende la doppietta, cioè tu venerdì non è che puoi esentarti per... Senti, l'ha quindi detto con un'aria da prefunerale. Ho due buoni per avere il caffè. Accidente. Ma perché okay. Non ti è ancora sto arrivato? Sto accumulando i buoni ma di Lorenzo... tutte queste trasmissioni della pandemia, eh. Fatico, ma Lorenzo Nespoli, ma cosa fa? Cioè, doveva mandarti il caffè anche oggi? Siamo a due? Vabbè. Cioè, siamo a, da quando è iniziata la mancati. Pandemia siamo a 22 caffè. Accidenti, tieni il conto. Secondo me sono precise. Va bene. Mario, niente, ci troviamo venerdì a questo punto. Va bene. Ti ho ingabbiato così a in diretta. Mattina. Va bene, grazie. Un grande abbraccio. Andiamo un attimo a sentire la pubblicità. Un minuto, poi arriva Vestaglione Manera, eh. Uno, nessuno, 100 Milan. A Milan, ma quali soldi? Ma quali soldi? Soldi a chi? Quando arriveranno? A parte che quando arriveranno saranno sempre i pochi a beneficiarne e male, come è sempre successo in Italia. Ma il problema più grande è che i soldi non arrivano alle aziende. Guardate i soldi che ha messo a disposizione Intesa con la garanzia SACE a chi sono andati. 99% a Fiat e 1% per un totale di 40 milioni alle aziende e 6 miliardi e 3 a Fiat. Ma di cosa parliamo, Milan? Ma di cosa parliamo? Caro Milan, sicuramente... quello che dice la signora dei gilet arancioni è una cosa ridicola. Però facciamoci due domande su che amaretta c'è nel popolo. Che il popolo è stanco di questa politica in generale. Perché non parliamo di quello? Se la gente va in piazza vuol dire che non sta bene. Sicuramente amarezza e rabbia c'è. Noi abbiamo qua il principe dell'amarezza, il nostro Leonardo Manera, voglio dire, quindi amaro Manera, buongiorno. Invece oggi sono felice oggi, oh, perché grazie al coronavirus ho intravisto un futuro per mio figlio Beniamino, che tra l'altro oggi compie gli anni. Ho capito qual è grande la strada per mio figlio. Auguri a Beniamino, auguri. Lo vedrò dopo. Ma ho capito finalmente che strada deve intraprendere Beniamino per avere un ruolo, un lavoro sicuro nella nostra società italiana. Allora, deve diventare un commissario, ma non un commissario di polizia. Un commissario ad acta, diciamo. Si dice un commissario ad acta, cioè commissario buono per ogni occasione. Quando c'è un problema c'è il commissario Beniamino. Il commissario buono. Guarda il commissario Beniamino. Allora, il commissario io credo Beniamino che così... è che... secondo me è un personaggio così... prossimo di Maurizio De Giovanni, il commissario Beniamino. Sì. Quando oggi lo vedrò per il compleanno, ero Beniamino da grande, devi fare commissario, non il di commissario. Polizia, ma un commissario ad acta. Commissario no, è vero. Buono per tutte l'ultimo pare che possa essere Cottarelli, commissario per la gestione dei fondi che ci darà l'Unione Europea. Lo stesso Cottarelli dice: ma serve questa cosa? Oggi al Corriere, non lo so. Oppure possiamo proporre un altro grande. Lo vogliamo salutare, il grande Luca Bizzarri, che è qui con noi, commissario Bizzarri, anche il commissario Bizzarri. Anch'io farei come stai volentieri come Beniamino. Sì, volevo farlo anch'io. Oh, grazie Luca Bizzarri. Quello vero che è stato sbrandato è lui, è Luca Bizzarri. Esatto, è Luca Bizzarri. Infatti, fino a mezzogiorno. Infatti ho detto è incredibile, cioè ce l'abbiamo fatta fino a un minuto fa non ne ero così sicuro. Luca, no, ti abbiamo svegliato tanto. Solo, ma figura, ho anche già pisciato il cane proprio. quindi sì, insomma, sì. È da mo che sono sveglio. Va bene. Sì. Io allora Luca Bizzarri l'ho sentito in crisi per la chiusura della Grecia. No, ho visto qualche intervista, molto. Ma perché va in Grecia spesso? Allora l'unico posto della Grecia che mi piace è Paros, dove ho girato un film meraviglioso e dove sono stato benissimo per mesi e dove volevo prendere la residenza, però non me ne frega molto della chiusura della Grecia, devo dire la verità, nel senso che credo che sia una delle tante cose che si dicono così tanto per parlare di qualcosa in questo enorme bar che stiamo diventando, per cui ogni tanto uno esce con una cosa e si parla di quella cosa lì per giorni, sì, anche sì, se sì. Poi la roba è nulla, perché non esiste, non ha chiuso nulla la Grecia, quindi... Però è interessante questa cosa effettivamente della rabbia, cioè in questi mesi si è accumulata un bel po' di rabbia, Luca, non so, tu che sì, sei come sì. Dire, un uomo che sei sempre in prima linea e sei a contatto con anche il pubblico, la percepisci questa rabbia o, e se sì come? Ma guarda, secondo me sicuramente la vita è molto più complicata per tante persone e bisognerà aiutarle in qualche modo. Poi se noi con la rabbia vogliamo parlare di quei quattro pirla che ieri erano vestiti da arancione in piazza, no, quella non è la rabbia, quella è solo la scemenza al potere e purtroppo secondo me quel potere alla scemenza gliela diamo noi, nel senso che invece di considerarli da TSO come sono, il fatto che siano su tutte le prime pagine dei giornali, che noi stessi in questo momento ne parliamo, dà una rilevanza che in un paese normale non avrebbero. Mi ricordano tanto i nazisti dell'Illinois, dei Blues Brothers, sai, quattro matti che si sì, mettono sì. Lì, però poi alla fine hanno una rilevanza minima. Sì, non credo che siano rappresentativi di una grande massa di persone. E non rappresentano la rabbia loro, ecco. Quindi loro non rappresentano la rabbia, sicuramente, ecco. Anche se vorrebbero tanto. Tu come hai vissuto questo periodo? Con amarezza o tutto sommato benino? Ti sei rilassato, sei stato bene, te la sei goduta? Com'è? Te la no, sei io goduta? Lo, malissimo all'inizio, anche perché poi ho scoperto che seppur in forma lieve me la sono presa. No, quindi sono stato, ma come? Sì, sono stato a casa qualche giorno agli inizi di marzo, ma con 37,5 e poi facendo un esame pochi giorni fa ho scoperto di averla fatta. Però cioè, l'ho fatta in maniera veramente blandissima, sì. Però bene. Mi sono però come dire la strizza mi è venuta anche se era blanda e quindi i primi 20 giorni strizza, poi pian pianino mi sono abituato e adesso fino alla fase 8 credo che non uscirò più di casa. Ma come la fase 8? Mi sono trovato bene. Io devo dire la verità che mi sono trovato bene nel lockdown. Cioè, io sto bene. Sei uno da sindrome da capanna, adesso sta in casa, sì, non esce sì. più. No. Sono diventato. Avete presente Dinamite Blah, il personaggio di Disney, quello che gira sì. con la doppietta e il cane e spara a tutti quelli che vede. Sono diventato sì. così. Ma perché una tu sei sociale, un pigro di fondo, sei un pigro e ti trovi bene a casa tua e non hai voglia sì, di sì, uscire sì. di alzare. Adesso domenica saremo in onda quelli che è il calcio. L'idea di prendere la macchina, partire da Genova, andare a Milano, andare in studio. Oltretutto, dopo aver scoperto che il mio mestiere si può fare anche benissimo da casa con Skype, non c'è più bisogno di. Quindi io aspetterei ancora qualche fase. Infatti è una vera rivoluzione anche per il mondo dello spettacolo, la TV. Oggi leggevo Corrado Formiglia, ha detto è stato come fare l'inviato di guerra, anzi più complicato condurre un programma televisivo così. Cosa ti aspetti sì. da domenica con Paolo, con Mia? Guarda, io l'unica cosa che aspetto è che ci facciano tornare il pubblico in studio, perché senza pubblico il nostro mestiere, Leonardo lo sa meglio di me, cioè noi non siamo degli artisti che possono fare le loro cose in cameretta, come noi purtroppo il nostro lavoro ha bisogno di un pubblico e senza pubblico non ha senso il nostro mestiere, per cui spero che presto ci facciano tornare il pubblico in studio, che lo facciano tornare nei teatri, mi fa molto ridere che si possa andare in piazza a insultare Mattarella uno a 20 centimetri dall'altro ma non si possa andare in un teatro a vedere uno spettacolo in sicurezza, per cui speriamo che presto torni il pubblico negli studi televisivi e nei teatri, perché senza pubblico è molto difficile ed è molto triste. Questo effettivamente sì, anche perché se fai uno spettacolo, magari dici delle battute senza pubblico, ti sembra proprio di essere un po' un pirla, diciamo, perché dici esatto. le cose e cadono nel vuoto. Poi vabbè, a me non cambia molto, perché anche quando c'è il pubblico non è che si ammazzino da ridere, però quelli che fanno ridere... No, ma devo dire che effettivamente le immagini di ieri, alcune immagini di ieri, molti hanno detto quando daranno la prossima multa a un commerciante che non rispetta le regole, questo sì. commerciante potrebbe dire scusate, ma avete visto le manifestazioni per strada? Venite da me, è un po' così. Esatto. Solo che credo che non funzioni. Vabbè, intanto torna anche il calcio, Luca. Ormai torna anche il calcio, riprende sì. quelli che è il calcio. Come purtroppo. il calcio, perché... io speravo che fosse finita qua, invece ma io e non poi... ho capito, quindi voi dovete andare avanti fino ad agosto. No, noi facciamo una puntata senza il calcio, perché sarà questa domenica, e è una puntata che servirà soprattutto, come dire, di saluto e di arrivederci a settembre. Poi tornerà al calcio quello vero, però non so se sarà quello vero il calcio che tornerà. Secondo me sarà un altro sport, con altri ritmi, addirittura altre regole, e a me pare un po' magari così il Milan vince, lascia stare, magari la volta buona che il Milan torna a vincere. Io sto pensando a quelli che vincono, essendo genuano penso a quelli che perderanno, e penso anche, se volete ve lo scrivo adesso, alla sequela di ricorsi che ci saranno per chi andrà in Serie B, per chi perderà. Tu dici che poi non accetteranno il verdetto del campo le squadre? Certo. Ma perché? Perché ci sono le porte chiuse? Perché si comincia con delle nuove regole. Secondo me, un paese malato come l'Italia, non lo so, ci saranno molte ricorse. Se si finirà. È interessante questa lettura. Fa un po' ridere il calcio come lo si è visto in Germania. Si può spingere, affollare nell'area di rigore, poi però quando si fa gol bisogna darsi il colpettino di gomito per non rischiare. L'avete visto le immagini dei calciatori che si allenano con i guanti di lattice, tipo si sputano in faccia, si tira però con i guanti di lattice, dici ma dai. Luca, ti ringraziamo tantissimo. Allora ti lasciamo a casa a questo punto, perché sei già andato in giro con il cane. Io fase 7, fase 8 esco. Però insomma, domenica l'ultima puntata della stagione, di questa stagione bizzarra di quelli che è il calcio, con Luca, Paolo e Mia Ceran. Grazie Luca per essere stato qui con noi, Luca Bizzarri, grazie davvero. Allora, che dire, Leonardo, sai che siamo in diretta su Facebook ma tu non ci sei, stavolta abbiamo tolto anche la foto della caldaia per non sembrare sponsorizzati. Mi devo organizzare, mi sono arrivati due messaggi del tecnico di Radio 24 che mi ha invitato Mitico a organizzarmi anche io. Lo farò, che era pronto a lavorare già da ieri per metterti in onda già da oggi. Lui era pronto il 2 giugno a essere efficiente, a lavorare anche in un giorno festivo per permetterti di andare in video oggi. È complicato. È complicato perché immagino... dovrei utilizzare Skype e contemporaneamente il telefono, quindi due device. Miseria. E per me, che non sono molto tecnologico, diventa complicato. Già, ho capito adesso come usare l'auricolare, quindi mi ci vorrà un po'. Quando gli ho detto c'hai il cavo di rete, sì ce l'ho il cavo di rete, ho capito, ma metti il cavo di rete, ma sì ma ce l'ho il cavo di rete, connessione è migliore. Il mio computer non prevede più l'attacco per la rete, è wifi, quindi è inutile che tu ironizzi. Ho un computer evoluto che rispecchia anche il suo proprietario, quindi... Sì, infatti, allora forse, devo dirti la verità, che in realtà Sandro Fortunati mi ha mandato un messaggio un po', sai quelli che si mandano i messaggi con i puntini di sospensione, metto Leonardo, ha detto che da lunedì forse... Se pensava di partire in video da lunedì, insomma, siamo a mercoledì, forse. Poi c'è giovedì. Poi c'è venerdì, dammi il tempo forse di organizzarmi. Poi ha messo dei puntini di sospensione anche. E io ho detto sì Sandro, devo guarda, lascia stare, cioè, so già, so cosa. Che cosa devi organizzare? Anche mentalmente devo entrare nell'ottica mentale di questo tipo di ma organizzazione. Ma ti vogliamo vedere in vestaglia? Ti fai vedere in vestaglia in diretta da lunedì, su Facebook? Da lunedì. Forse. Che poi non è che a giugno metterò la vestaglia di Kashmir, ecco. No, di lino. Vabbè. A pantaloncini di corti. Lino. Vabbè. Sì. Traffico, va dai. Uno, nessuno, 100 Milan. Prima il governo potrebbe pagare le casse integrazioni, che sono 3 mesi che non ha pagato nulla, e non dare la carità alle partite IVA, perché è veramente la carità, perché abbiamo riaperto i negozi ma qua clienti non se ne vedono. Ciao da Bergamo. Come prima cosa basta con questo schifo di mascherine. Secondo, risarcire

Framanera. Framanera, cioè... o Don Leo, anche Don Leo ci sta bene. Don viveva Leo ci sta in bene. Un villaggio, viveva in un villaggio, mi ci vedo già. Sei già entrando, stai già entrando nel personaggio, no, ho capito. Io però vorrei farlo risentire a tutto il mondo, perché questa cosa dei gilet arancioni e della, tu l'hai sentita, no? Quella di Conte, Bill Gates, il mercurio nelle vene, sì, il 5G. Sì. Cioè, se, io devo dire che ci vuole anche uno sforzo per condensare in 30 secondi tutto questo, cioè non è facilissimo. Vogliamo farla risentire, Carmelo, gilet arancioni Conte sulla questione. Quando di Conte, Bill Gates. Eccolo. Telefona, sì, Bill Gates. Ok. Sulle Conte nostre telefono. Spalle, prendendo 140 milioni. Decide 140 milioni, okay. Decide Conte. Il mercurio. Di iniettarci nelle il mercurio. Bene. Nelle vene. Le vene. Ai 5G. Collegate e ai 5G. Diventeremo dei piccoli robot. Se tu vuoi ammazzarmi, basta alzare la temperatura del mio corpo. E io muoio. Sì, questa chiusura non l'ho. Bisogna dire le cose come stanno, questa è la verità. Allora, se lei vuole togliere o ironizzare su chi dice veramente le cose come stanno, allora bisogna dirlo subito. Non l'ho interrotta, non interrompa me. Esatto, io sono del partito super sovranista italiano, PSS. Benissimo, vedo che giustamente hanno fatto partire l'ino del PIS, perché se lei deve ironizzare sulle verità di Bill Gates, del 5G, dell'iniettare mercurio delle vene, che sono le verità assolute. Ma che verità di chi? Lei è piegato. Piegato al sistema, che non piegato. Sono altro. Sì. Chi dice Garosio dice verità, il sottoscritto. Lei è piegato, pensavo, ora dice lei è piegato. Contro chi il dice Garosio dice italiano. Piegato. Ecco, no, chi dice Garosio dice verità. Anche Carolina Bucciere, pazienza nostra. Non mi faccia parlare in latino, in latinorum. Scolia in chingoli. Ecco, l'ho detto. Sì. Basta, parole troppe, due sono poche. Ecco, Garosio, due sono troppe anche. Garosio, la ringraziamo per questa intemerata apparizione così. Va bene, andiamo al giornale radio, sì, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Partiremo parlando di lavoro agile. Ecco, vi piace di più smart working? Vi piace di più versione Manera del lavoro da casa? Vabbè, parleremo di questo tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Ci siamo, Ci siamo alle 10:07 minuti. Caro Leonardo, voglio subito partire con... È arrivato, credo, una richiesta per te, vogliamo sentirla? Leonardo, ma le ricette di Gioggia dove sono finite? Io non so più cosa cucinare. È vero, è un po' che non tornano le ricette di Giorgia. Ci attrezzeremo immediatamente, magari domani stesso cercheremo di contattarla per avere delle nuove ricette. Ricette di Giorgia, ricette facili di Giorgia. Va bene, va bene. La godoletta romana, la godoletta romana. Come la romana? La godoletta, perché la capitale milanese. D'Italia è Roma, e tutto è capito, Roma, però. La godoletta romana, la godoletta romana, tipica... La cassola romana. Ma come la cassola romana? Vabbè. Enrico da Roma, appunto. A proposito, c'è Enrico da Roma. Buongiorno. Enrico da Roma. Buongiorno. Pronto? Eccoci. Sì, prego. Aspetta, volevo intervenire per quella spiacevole situazione di quella famiglia che ha avuto quel ragazzo, quel bambino. E volevo dire appunto che è assurdo andare in tribunale e fare tutte queste cose, perché praticamente lì ci rimettono un po' tutti quanti. Io penso che la cosa migliore era che si risolveva il problema fra le due famiglie, quindi adesso praticamente hanno risolto, il bambino praticamente nascerà come nascerà, la donna è stata condannata, a che pro? nascerà, il bambino c'è già, vive, sì. Non è che nascerà come nascerà. La dovevano risolvere in che senso tra di loro? Cioè, è che la famiglia del ragazzo doveva parlare con la donna, venite a definire la situazione. A parte che io credo che la famiglia sapeva pure che stava incinta e quindi poteva anche abortire, tra l'altro, perché io non credo che non sapeva nulla. Però una volta questa che è nato, una volta personale, che abbiamo l'evidenza dei fatti, sì? Che si va a fare in tribunale per risolvere che cosa? Ma perché è stata, perché il padre di fatto genetico aveva 13 anni al momento del concepimento, quindi si tratta di, per il codice, di violenza sessuale, di abuso sessuale su un minore. Ci sono dei risvolti penali. Cioè, infatti è stata condannata a 6 anni, cioè a 13 anni aveva questo ragazzino quando secondo il giudice è stato violentato, questo è stato abusato dalla signora. Comunque Enrico, per lei se la dovevano vedere un po' così fuori sacco, ecco, non in tribunale. Allora, 10 minuti, vogliamo parlare di questo lavoro agile, chiamiamo così. Voglio subito chiamare Gianna Schelotto, buongiorno, la nostra psicoterapeuta, a cui siamo molto affezionati. Ma sa che Gianna Schelotto, il nostro lentopede Manera, è rifiorito da quando lavora a casa. È rifiorito. Non deve... pensavo a lui, sa com'è contento. Sì. Non ha nemmeno sensi di colpa, non ha nemmeno la bellezza di questo periodo, che si è alleggerito dai sensi di colpa, cioè si poteva impigrire, si poteva ciondolare, ma non era colpa nostra, non si poteva fare altro. E quindi ho pensato l'alibi del virus. L'alibi del virus. No, ma sensi poi di da colpa quando ne è a avevo casa... pochi anche prima in generale, comunque cioè... è vero, sì. Sì, comunque da quando è a casa che non deve prendere la metropolitana, non deve parlare coi colleghi, non deve entrare in radio, non deve, cioè è proprio è un altro uomo, è rifiorito, è di buon umore. È capitato a molti. Allora, ci aiuterà Gianna Schelotto a capire l'aspetto psicologico di questo smart working e lo farà insieme a Laura Di Raimondo, che saluto, è direttore generale di Astel Asso Telecomunicazioni, cioè in Confindustria rappresenta tutta la filiera delle telecomunicazioni. Buongiorno dottoressa Di Raimondo, buongiorno, grazie di essere buongiorno. Qui. Allora, c'è l'aspetto psicologico e pratico. Ecco, quello pratico ce lo può inquadrare, di Raimondo, cioè le aziende adesso si devono adattare perché questo shock che è arrivato traumatico ha fatto capire che si può anche lavorare da casa. E quindi adesso cosa devono fare? Allora, sicuramente dobbiamo passare da una fase in cui abbiamo gestito l'emergenza e quindi abbiamo sperimentato, come dicevate voi, lo smart working, direi quasi più il remote working, no? Perché in realtà questa fase di emergenza sanitaria ha coinciso poi con il lockdown, quindi con la casa, no? La coincidenza assoluta con il luogo della casa. Lo smart working è ben altro, no? Però ha consentito questo nelle imprese private, la pubblica amministrazione. Ricordo che oggi abbiamo oltre 8 milioni di persone che lavorano in remotizzazione, nel nostro settore ne abbiamo oltre 75 mila. Ha consentito non solo il lavoro da casa, la didattica da casa, quindi le scuole, le università come gli uffici sono rimasti, pur essendo chiusi, l'attività è continuata, il paese ha continuato a lavorare. Chiaramente questa è stata una fase estrema, no? Di estremizzazione, la fase che dobbiamo adesso costruire, ingegnerizzare è quella della nuova normalità, dove il modello vincente molto probabilmente sarà quello ibrido, no? Tra fisico e virtuale, perché ci sarà un mix. E chiaramente tutta la fase che è stata quella che ha coinciso, no, con un processo di alfabetizzazione digitale, non dimentichiamolo, accelerata per tantissimi cittadini, sì, che hanno sperimentato, tutti noi abbiamo sperimentato nuove piattaforme, ci siamo appropriate anche di quelle dei nostri ragazzi, no, quasi tenuti per mano da loro. Chiaramente da questo non si può tornare indietro perché l'abbiamo sperimentato proprio come digitale nel nostro quotidiano. Non parliamo per Manera, che purtroppo non riesce ancora a entrare su Facebook con il video, ma ce la farà anche lui. Abbiamo mantenuto le relazioni, no? Quello che mi piace dire spesso, poi tra l'altro abbiamo l'esperta, che c'è stato un distanziamento fisico ma non un distanziamento sociale, ma in realtà noi tra le piattaforme alcune relazioni al di là dello schermo abbiamo imparato a tenerle, a gestirle. Quindi questo è però è interessante, forse Gianna Schirotto ci può aiutare, perché davvero molti ne hanno beneficiato. A me un po' spaventa questa perdita di contatto umano, Gianna Schirotto, a lei spaventa? Allora, io l'ho sperimentata anche con il mio lavoro, perché io ho lavorato quasi senza interruzione via Skype. È chiaro che, come dire, vedere una persona in studio con tutto quello che consegue la presenza, la contiguità, eccetera, è molto diverso da vederla a distanza. Però ho constatato che non c'è stato, come dire, quello che temevo, cioè l'ansia, la paura di non essere abbastanza vicini. Ecco, da questo punto di vista sono propensa a pensare però che si tratti proprio di un esperimento transitorio, che nel momento in cui questa cosa diventerà o può diventare stabile e abituale, allora sì che il contatto umano comincerà a mancarci, se dovesse essere solo questo. Cambierà il concetto di tempo, è chiaro che se questa cosa si normalizza ci saranno degli orari di lavoro anche a casa, però con una grande flessibilità, con una grande possibilità di interrompersi. Penso alle donne che col lavoro a casa non avranno più quella zona franca dove dovevano occuparsi del lavoro e di nient'altro, non della pentola che bolle o del bambino che cade e si fa male, ecco. Quindi ci sarà bisogno di una grande riorganizzazione rispetto a questo. Una grande riorganizzazione. Mi viene da chiedere a Gianna Schirotto, in questo modo, visto che utilizziamo questi device tecnologici per rimanere in contatto in questi momenti, non diventiamo ancora più dipendenti da questi attrezzi? Io porto il mio esempio. Un giorno, un mese fa, pensavo mi si fosse rotto il telefono e sono entrato quasi in panico, perché avevo la sensazione di essere completamente escluso dal mondo ed ero dispiaciuto quasi come se fosse mancato un parente, perché avevo il telefono che non funzionava più. Ho l'impressione che saremo ancora più dipendenti appunto da questi device. Beh, secondo me si è sviluppato una sorta di rapporto magico con l'oggetto, cioè era diventato così importante per noi perché era quello che ci apriva il mondo. Ma se il mondo sarà aperto e noi potremo avere delle alternative, forse questo pericolo sarà meno importante di quanto poteva essere nel periodo di massima chiusura. Io invece vorrei chiedere alla dottoressa Di Raimondo a capire qual è la sfida maggiore. È per le aziende che devono attrezzarsi e magari ci spiega anche come, è per i dipendenti, i lavoratori, i cittadini comuni, coloro che... Chi è più preparato secondo lei? Chi è più pronto a raccogliere questa sfida e chi invece deve fare più passi in avanti? Allora, sicuramente la sfida che abbiamo di fronte è proprio quella della convivenza con una normalizzazione, no? Il lavoro agile. Allora, le aziende che l'avevano sperimentato, così come le persone che l'avevano utilizzato come una realtà diffusa, io parlo di un mondo, il nostro, dove già magari solo per 8 giornate al mese, chiaramente non con un'estremizzazione del 100% della prestazione lavorativa, era già una realtà. Allora, la sfida enorme è quella della cultura, è quella, chiaramente lo smart working, il lavoro agile, non è dare alla persona il cellulare, il PC, la connessione, ma è ben altro, cioè è proprio il modello lavorativo che si evolve nella materializzazione, sicuramente, come diceva la professoressa, del tempo, della dimensione del tempo, dello spazio, con un processo che deve chiaramente normalizzarsi anche nella non sovrapposizione assoluta, come è stata in questa fase, tra vita lavorativa e vita privata, vita personale, deve esserci, certo, diciamo, un punto di equilibrio win-win. E la sfida centrale è quella del capitale umano, delle persone e chiaramente della formazione, perché a questo noi l'abbiamo visto, no? Siamo andati a casa e ci siamo trovati apprendisti continui, permanenti, no? Abbiamo appreso dai nostri figli sull'utilizzo delle piattaforme, poi abbiamo reingegnerizzato le case, no? Perché faccio l'esempio mio, avevo un figlio che è pronto per fare gli esami di maturità, un altro all'università e io che lavoravo. È chiaro che tutta, no, l'organizzazione della casa è mutata, quindi abbiamo utilizzato quelle che si chiamano le soft skills, no? Abbiamo cominciato a essere creativi, ad utilizzare il problem solving, a mettere in campo competenze che magari nella realtà normale ancora non erano così affinate. E quindi è qui la sfida culturale, cioè noi dobbiamo avere le infrastrutture come paese, qua ci tengo a dirlo perché è chiaro che se non c'è la connessione, non c'è la rete, non c'è un'infrastruttura, perché questo ha acceso anche un faro, un punto di attenzione su quanto sia importante, quanto sia un asset strategico l'infrastruttura delle telecomunicazioni e del digitale. Il secondo punto è il software, quindi significa proprio il capitale umano, no? La formazione, sì, l'evoluzione, sì, perché imparare continuamente. E poi in questo momento certamente io ho visto molte persone così che si sono arrabattate in qualche modo. Ieri sentivo un amico che lavora come consulente finanziario, mi ha detto: guarda, io una bambina di 5 anni a casa, la borsa che cadeva, il telefono che mi suonava, tutti che mi chiamavano, la figlia che mi chiedeva 5.000 cose, giustamente a 5 anni, a 6 anni, ho visto la disperazione negli occhi per un attimo di questo mio caro amico. Bisogna strutturarlo in maniera efficace, non che sia un'emergenza. Diamo però un attimo a sentire le informazioni sul traffico, poi ritorniamo tra un minuto. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, stiamo parlando di lavoro agile, smart working. Con noi ci sono Gianna Schelotto e Laura Di Raimondo. Io vorrei capire da Gianna Schelotto se qualcuno, mantenendo il segreto professionale, ma qualcuno dei suoi clienti le ha detto: guarda come sto bene senza quel collega, senza il capo, senza dover riferirmi tutti i giorni a quello lì che proprio mi sta sulle scatole, che finalmente non vedo, senza dover andare nel traffico, senza dover, no? In una dimensione casalinga. Sì, casalinga, da mettersi a lavorare in ciabatte e pigiama, è questo secondo me. Manera, vestagliona manera, va bene, sì. La dimensione che mi preoccuperebbe di più del lavoro a distanza, perché poi saltano tutti i limiti di tempo, cioè non c'è più tempo di lavoro, tempo di casa, tempo di figli, e questo più di qualcuno. Però mi è capitato anche l'opposto, e cioè di persone che si sentivano deprivate, sole, che si sentivano sole, che avevano bisogno proprio di questo confronto con i colleghi, anche i colleghi non amati, anche i colleghi antipatici, che però vivono questo rapporto come uno stimolo continuo. E questa mancanza di stimoli esterni e quindi di socializzazione ha spaventato moltissimi. Sì, sì. È una caratteristica... dal punto di vista appunto caratteriale di quelli che si trovano bene col lavoro agile e quelli che invece preferiscono recarsi al lavoro pur col traffico e tutti i problemi che ne derivano? Non ho capito. Cioè, chi sono quelli che si trovano bene lavorando da casa come caratteristiche umane? Sono le persone sono i misantropi, sono quelli più per carità, che preferiscono non mettersi a contare, non confrontarsi con gli altri, ecco, questo sono. Però mi è accaduto anche un fatto particolare, cioè una persona molto fobica, di quelli che hanno paura dell'ascensore, paura dell'autobus, paura di stringere la mano, paura di toccare le mani. In seguito a questo coronavirus hanno perso ogni fobia, toccano tutto e guardano noi che facciamo quelle cose che facevano loro, ci guardano con superiorità. Ma dai, vedi, la mente umana è interessante. È come se questa persona, specchiandosi negli altri, abbia visto tutti i suoi difetti, tutti i suoi eccessi e se ne sia liberato. Beh, insomma, il virus come liberazione non è male per queste persone. No, dottoressa Di Raimondo, uno dei classici mantra è ma il lavoro agile fa perdere in produttività. Che cosa c'è di vero e che cosa c'è da smitizzare da questo punto di vista? Allora, c'è da smitizzare sicuramente tantissimo, perché in realtà intanto partirei dal fatto che, anche per rispondere alla professoressa, è chiaro che la remotizzazione di adesso estrema nel lockdown ha coinciso, no, con la presenza solo dentro casa, il luogo di lavoro è diventata la casa, Il lavoro agile non è questo, nel senso è un modello organizzativo di lavoro in cui non solo c'è il mix tra fisico, quindi fisicità, presenza e virtuale, ma non è neanche la coincidenza con la casa, perché in realtà se tu riesci, se c'è un'introduzione, qui arrivo anche al tema della qualità come della produttività, a modificare profondamente i modelli organizzativi del lavoro, no? Quindi significa a partire dai modelli di leadership, perché lì lo snodo è proprio una cedere potere da entrambe le parti, no? A partire proprio dai capi, che tra l'altro in queste condizioni di remotizzazione abbiamo visto anche nelle situazioni diverse, no? Perché quello che descrivavate voi della bambina, no? Della figlia di 5 anni, ha anche passato un'umanità che nel luogo di lavoro, no? Quando c'hai degli stereotipi di un certo tipo non riesce neanche a far passare sì. oltre la barriera, quindi ci ha portato veramente in maniera inaspettata oltre ad alcuni paradigmi che in Italia hanno sempre un po' caratterizzato il mondo del lavoro. Allora, lo snodo è a passare a una, da quella che è stata la remotizzazione estrema a una normalizzazione. Meno creeremo lacci e lazzuoli anche dal punto di vista legislativo e più lo lasceremo libero il lavoro agile di essere poi customizzato, fissato per, i vari, per le varie attività e per le varie situazioni. È qui la, la grande sfida culturale. La pubblica amministrazione è diversa dalla persona che lavora ad obiettivo in un'azienda, è diversa, per esempio sì. noi abbiamo remotizzato attività che se lei me l'avesse chiesto 3 mesi fa noi avremmo detto impossibile, tipo l'assistenza al cliente, il famoso customer care, che oggi sì. lavorano benissimo si a distanza. Può fare. E ma infatti può fare. Erano quelle resistenze culturali, per questo dicevo dal punto di vista delle aziende, a dire ma no, non si può fare, cioè c'è anche quell'idea di voler controllare se uno è qui sul posto di lavoro produce, se no no, c'è un po' questo approccio, questo approccio ancora che si fa fatica a vincere, no? E questo è il punto delle leadership e della cultura aziendale, nel senso che tu, lo dicevo prima, se tu dai la PC alla persona o il cellulare, poi tu gli devi dare responsabilità, autonomia, gli devi riconoscere sì. libertà, quindi a quel punto è proprio uno scambio, nel senso che cambia il modo di lavorare e il modello con cui la persona lavora, perché chiaramente noi non possiamo immaginare che la persona, diceva prima la professoressa, H24, 7 giorni a settimana sia a disposizione del datore di lavoro, no? Dobbiamo trovare un punto di equilibrio che crei, diciamo, una differenziazione tra vita privata e vita lavorativa, lavorando sì. però nella situazione di responsabilità, e quindi questo significa un altro modo di diciamo misurare la produttività, così come la qualità, che non è la presenza fisica minuto per minuto, ma è un altro paradigma. Ma no, è il risultato. Gianna Scherotto, siamo pronti? Chi lo sa se siamo pronti. Ci vuole un salto mentale importante. Secondo me questa cosa è riuscita a tante persone, è riuscita anche abbastanza bene senza troppi stress, perché c'era la scusante dell'emergenza. Adesso bisogna cominciare a fare sul serio, come dire, abbiamo fatto una prova, adesso bisogna confrontarsi. Sì, non fare in modo che sia stata solo un'eccezione. È una rivoluzione psicologica questa, è una rivoluzione sociale e psicologica, nel senso che appunto cambia completamente il nostro modo di pensare al lavoro, il nostro concetto di tempo, la nostra elasticità e la nostra flessibilità. Sono tutte cose che possono diventare un vantaggio per il lavoro, per la produttività. Cioè, se uno lavora contento, rilassato, è chiaro che produce anche di più. Poi dipende forse anche dalle condizioni di ciascuno, perché per esempio se io lavoro a casa ma mi sto separando, per esempio, ma vivo ancora con la donna con la quale mi sto separando e ogni volta che la vedo c'è un po' di rancore, di discussione, di problemi, diventa difficile anche lavorare, quindi forse bisognerebbe fare un'indagine anche sulle famiglie prima di concentrarsi sullo smart. Fare in modo che chiunque si metta a lavorare da remoto abbia poi delle vie di fuga, questo vuol dire. Altrimenti c'è un'ultima cosa, ma abbiamo 30 secondi. So che Laura Di Raimondo, un tema molto delicato è anche il 5G. 5G vuol dire digitalizzazione, insomma, tecnologia all'avanguardia. Se uno nomina 5G in questo tempo, ci sono anche i complottisti che, attenzione, dicono che no, anche lei vuole diffondere il virus con il 5G, di Raimondo. La battuta che mi viene bene è quella che diventa fondamentale, no? Una corretta e conforme comunicazione da parte sia delle istituzioni locali, nazionali, ma anche dei media. La responsabilità dei media su questo tema delle fake news diventa veramente essenziale. Sarebbe una perdita di opportunità, cioè di fronte ai traguardi che in questo momento noi abbiamo come paese, il paese non si può permettere di tornare indietro. Questo vale sia per il lavoro agile, per il paradigma che è cambiato, ma è cambiato anche nella testa delle persone, nel percepito delle persone, non lo sottovalutiamo. Così come sul tema dell'infrastruttura, cioè completare l'infrastrutturazione del paese, utilizzare le nuove tecnologie tipo il 5G, che sono quelle che ci porteranno avanti con un'accelerazione incredibile anche sui servizi. Pensiamo solo alla sanità, a tutta l'assistenza a distanza dei malati cronici, non voglio dire la scuola, l'università, parlo delle cose proprio sensibili che qualcuno di noi ha vissuto sulla pelle, ma che abbiamo vissuto tutti in questa fase di emergenza. Allora, tornare indietro per i pregiudizi e per il fatto appunto di posizioni che sono estreme e che non hanno nessuna correlazione scientifica, perché qui siamo arrivati, l'avete appunto rappresentato forse un quarto d'ora prima che iniziassimo noi, a situazioni proprio assurde. Questo è una, è una sconfitta di tutto il paese che non ci possiamo permettere. È necessario e urgente completare, perché abbiamo acquisito, le nuove generazioni tra l'altro sono molto più avanti di noi sul digitale, quindi questa è anche una responsabilità. Adesso abbiamo parlato delle persone che sono al lavoro, ma noi abbiamo i giovani dietro, e noi abbiamo una responsabilità incredibile. Eh sì, allora noi per il momento ci fermiamo. Voglio ringraziare Gianna Schelotto, voglio ringraziare Laura di Raimondo, ripeto, direttore generale di Astelasso Telecomunicazioni, anche saluti anche da Misantropo Manera. Bella, questo è il nuovo Misantropo Manera. Chi vuole stare a casa? Il misantropo, eh? Stupenda questa, guarda, Leonardo. Ho appena avuto una buona notizia che smentisce il fatto che io sia misantropo, cioè ho avuto la prima conferma della prima, del primo spettacolo confermato di quest'estate, in data 30 luglio. In data 30 luglio. Che bella questa cosa, si può leggere sul tuo sito leonardomanera.it, immagino. Già. No, il mio sito è in costruzione. Leonardo Manera, no, non è in costruzione. Non è in costruzione, non è vero, guardalo qua, leonardomanera.it. Sì, non ci sono le date. Dove lo fai questo comunque, spettacolo? A Bologna. Dove Bologna? Quindi, Bologna. Non so esattamente, non so esattamente il luogo, a Bologna, ma io non sono un misantropo perché sarò lì con le persone che spero vengano. Stupendo. Quindi 30 dopo luglio, la borsa, prima serata i dettagli. Dell'estate. Dopo la borsa, no. I dettagli, vai. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. Uno, nessuno, 100 Milan. Manera sarà pure triste, però sa cogliere molto bene le vicende della vita e sa interpretare. Bravo Manera. Fra Manera, campanaro, din don dan, din don dan. Suona le campane, suona le campane, din don dan. Din don dan. Grande idea Milan, così facciamo una sorta di radiofaro con una B come con Batman. Invece chiamate il commissario Beniamino. Ciao ragazzi. Mi guardava stupito per questa canzoncina ora un adolescente che si è avvicinato qui alla postazione radiofonica dalla ridotta di Viale Monza, Mattia. Mattia, buongiorno. Ciao, buongiorno. Sai perché abbiamo mandato questo Fra Martino? Perché Leonardo Manera si fa prete, frate per la precisione. Ah, ok. Quindi oggi c'è la foto di lui, frate? Sì, sì, ha deciso così. Ah, oh, va bene. Vuoi dirgli qualcosa prima di... Ciao. Ti auguro un buon cammino da Dio. Oggi è anche, però no, in realtà è, essendo oggi anche il compleanno di Beniamino, Mattia voleva salutarlo anche se non ti sta ascoltando. Auguri Beniamino. Grazie, ecco. Grazie Mattia. Magari ci vediamo domenica. Magari ci vediamo domenica se non ti sarai fatto frate nel frattempo, certo. caro Leonardo. Va bene, quindi 30 luglio primo spettacolo. Signori, ma è proprio, cioè, il giorno della ripartenza, 3 giugno ti confermano la ripartenza, ma è simbolico al massimo questa cosa, ma è stupendo. Sì, Leonardo, immagino ci sarà un po' di distanziamento con le sedie magari fissate a terra un metro dall'altro, ma insomma pare che si possa ricominciare. Sicuramente ci sarà qualcosa anche prima, ma la prima confermata è il 30 luglio a Bologna, quindi bello. Quindi ti hanno detto notizia. Confermiamo lo spettacolo, beh, ma è bellissimo questa cosa, è stupenda. Io inviterei Edoardo da Modena, che Edoardo, devi andare subito a Bologna il 30 luglio al primo spettacolo di Manea, tanto un buon della Bologna, insomma siamo lì. Comunque Edoardo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ciao Milan, ciao Manera, se posso ci vado, perché io abito a Modena. Oh, ecco. Quindi, subito, allora, già, se posso ci vado, mette le mani avanti, se posso. No, se posso. Perché lavoro, lavoro. Il 30 luglio. Immagino che sia in orario serale, per cui magari sì, con sì, piacere. Sì. Sarà forse anche un sabato, adesso... Sarà forse anche un weekend, dire quindi... dove. Se mi è consentito posso anche dire dove. Attenzione, può dire dove, 30 luglio, l'ha scoperto. Dove? Vai, a Bologna, vai, presso il Parco Fico. Parco Fico, Parco Fico. Benissimo, guarda, io a Bologna ci sto andando adesso per lavoro, quindi non c'è problema. Io ho chiesto questa cortesia che mi è stata accordata e vi ringrazio, sì. Solo perché sono una partita IVA, ma attenzione, io sono un privilegiato e vivo in una città dove esiste un certo benessere, e sono privilegiato perché sono pensionato, ma perché mi sono laureato a 22 anni e quindi ho avuto tutto il completo percorso di contribuzione all'INPS e adesso lavoro come partita IVA. Da 4 mesi sì. Sostanzialmente faccio un lavoro un po' particolare, quindi faccio il chirurgo, quindi ho visto solo casi oncologici che tra l'altro faccio per dire un tumore del pancreas di Padova, meno di 60 anni, era stato rinviato di 3 mesi a Padova, un altro di Sorbolo vicino nel Parmense, cancro dello stomaco, stenotico, non mangiava più, gli hanno detto di aspettare 2 mesi, ma non era questo il mio problema. Vado subito al dunque per non rubare tempo a nessuno, ho ascoltato Calabresi, persona stimabilissima, e mi chiedo che favole ha letto. Abbiamo parlato, parlo da proprio attenzione, ecco, lo dico con rispetto, ma parlo dei fondi europei. Allora, prima sì. 1.500 miliardi, poi 500, adesso risulteranno 4 miliardi sotto condizione, previe riforme. Mm-hmm. Allora io dico... Beh, certo, nessuno, Edoardo, dà dei soldi così. I soldi che vengono dati dall'Europa sono vincolati a dire, però... Posso darti sì, tu? Certo, Edoardo. Allora, certo, hai ragione. Certo. E trovo un ragionamento che non fa una piega. Il problema è, lo vogliamo dire però, perché la gente spera. Ecco, tutto qui. Questo sì, allora io infatti ho citato Federico Fubini sul Corriere della Sera, ha fatto degli ottimi articoli e andando ad analizzare, ce n'era ieri uno sul Corriere, recuperatelo, e spiegando che i primi soldi si vedranno, se va bene, l'anno prossimo e riguarderanno una percentuale misera del PIL, meno dell'1%, quando invece si stima che il PIL perda il 13% quest'anno, e comunque vedremo. Quindi Federico Fubini, che faceva un'analisi tutta dettagliata, dice attenzione ai trionfalismi, a dire arriva, è vero, arriva una grande manovra, la più grande, i più grandi investimenti della storia dell'Unione Europea, però arriveranno con calma, col contagocce, l'anno prossimo, poi gli altri anni, vincolati. Sì, in realtà lo si dice e lo si scrive sui giornali, se la risposta deve essere come per gran parte dell'economia italiana, tutti maledetti e subito, ecco, questi non ci sono. Questi non ci sono, non sarà così, bisogna non illudere anche le persone, non sarà così, e quindi in questo Edoardo da Modena ha assolutamente ragione. Sai che, Leonardo, è arrivato un messaggio e adesso l'ho perso, ma c'era questo messaggio nel quale si diceva che ci sono gli adattatori perché tu avevi detto che non hai la porta per il cavo di rete direttamente nel computer, ci sono degli adattatori, costeranno 3 euro, 5 euro da USB a cavo di rete. Sì, ma se quindi io ho già il cavo di rete, adattatore, bene, perché ma perché col cavo di rete? A parte che funziona bene ogni tanto. Ma così funziona meglio col cavo di rete? Ma perché non vuoi questo progredire? Perché non vuoi migliorarti nella vita? Ma no, chiedilo a Sandro Fortunati, se mai gli risponde al telefono che cerca Sandro di installarti Fortunati una roba su Facebook. Non è molto, secondo me, competente in materia. Io ne so di più. secondo me, quando ti chiama Sandro Fortunati, tu digli, questo lo dici tu Sandro, questo lo dici tu che è meglio così tecnicamente al computer, questo... Ma scusa, io mi rifaccio ai virologi, i virologi in questi mesi, che dovrebbero essere i più sapienti, ci hanno detto un po' tutto al contrario, sì. Perciò, se anche i virologi hanno avuto queste opinioni così diverse e non hanno saputo fare chiarezza, ma perché io dovrei fidarmi di Sandro Fortunati? Senti, allora Sandro, fai così, quando lo chiami, alla prima obiezione reagisci senza di colpo fede, a seconda obiezione dici, senti Manera, mettiti tu la telecamera su Facebook, ci vediamo lunedì, lunedì forse su Facebook in diretta video. Vediamo un po' come va a finire. Uno vale uno. E mal che vada, io sempre a Aranzulla. Posso rivolgermi ad Aranzulla. Più che a Sandro che Fortunato. Mi dicevano che una delle richieste, questo me lo diceva credo Miriam Lucchetti, in una pausa di non lavoro, mentre girava con un foglio e l'altro di Tecnica Lucchetti, mi diceva che una delle richieste numero uno per Salvatore Aranzulla è come si spedisce una mail. Cioè siamo veramente, cioè mi sento un homo technologicus a questo punto. Come si spedisce una mail? Beh, non è così semplice. Ma secondo te Miriam Lucchetti come fa ad applicare la tecnica Lucchetti in smart working? Va in giro per la casa incontrando la portinaia e dice lascia stare, guardi che sono gira nel condominio, circolo nel palazzo fingendosi indapparata, poi non so se vive con qualcuno, vive da sola, non lo so, se vive con qualcuno lo farà col suo convivente, se invece non vive con nessuno lo andrà sul pianerottolo, ecco, va avanti e indietro al pianerottolo con dei fogli sbuffando. Comunque subito, dando subito manifestazione di sé, facendo finta di lavorare, mi dice che questa cosa di Salvatore Aranzulla non me l'ha detta lei, ma me l'ha detta Lorenzo Nespoli in riunione. E per me quando siamo in riunione siamo un corpo unico e quindi insomma quando lo dice uno lo dicono tutti. Me l'ha detto anche Elisabetta Fusconi che era in ferie, va bene, tutti così. Va bene, dai, andiamo alle informazioni sul traffico, che se ho capito bene è abbastanza intenso, ho capito bene. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, riguardo al lavoro agile, vorrei rispondere alla dottoressa che qui a Milano il lavoro è sempre stato agile, anche prima del Covid. Ma quante storie, l'unico problema sono i soldi, a casa si sta da Dio, ma perché non sapete vivere? Ciao. Ma io ho molta paura di questo utilizzo da parte delle aziende. Io ho visto la mia compagna, ha lavorato in lockdown 4 volte di più, ma ve lo dico veramente, con tantissime ore al computer, tanto ero a casa, e le prime 8 pagata, le altre totalmente gratis all'azienda. È un affarone per la sua azienda, un affarone. Va bene, come al solito ci piace lanciare il dibattito, poi persone che pensano cose diverse e storie diverse. Un saluto da Oslo, salutiamo Raffaele che ci ascolta in questo momento da Oslo, grazie che mi fate compagnia mentre lavoro da casa, e scrive: spero di essere a Bologna il 30 luglio e vedere lo spettacolo di Manera. Oh, vedi già che recuperi del pubblico. Ma visto che c'è la riapertura, la possibilità di vedersi, la possibilità di spostarsi, è tornato con noi, e lo ringrazio molto, il rappresentante delle Sardine, signor Elenio Mariotti. Elenio, Sardina Elenio, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a tutti voi, saluto tutti e ringrazio con educazione per l'ospitalità che mi volete dare anche oggi qui nella vostra deliziosa trasmissione. Grazie. Che bello. Buona educazione, bello. Senta Elenio, allora si riparte, ma vogliamo ricapitolare insomma il vostro manifesto, quali sono i punti del vostro manifesto, insomma in sostanza cosa sono le sardine, vogliamo recuperare questo... Ma diciamo che sicuramente la cosa che ci contraddistingue è l'educazione, sì. Cioè, infatti questo nel nostro manifesto le parole che ritornano più spesso sono grazie, prego, per favore, saluti. Scusi, a casa, tornerò. Stai bene, sì, con quei capelli. Cioè, perché si può anche dire le bugie, no? Basta dirle con l'educazione. Noi andiamo in piazza, ma sempre, insomma, con educazione, in punta di piedi, per non disturbare i piccioni che si mettono appollaiati sul cornicione. Vabbè, cioè, non siamo mica i soli. Ma io vorrei dire che non siamo mica i soli che abbiamo diritto di appollaiarci sul cornicione, dobbiamo rispettare anche gli altri che lo fanno. Ecco perché, sì, alla fine del nostro manifesto, nella pagina dei ringraziamenti, ringraziamo, sì, tutti quelli che ancora oggi hanno voglia di appollaiarsi sul cornicione, nonostante ci sia qualcuno che dalle finestre gli spari i pallini di gomma con la cerbottana per farli andare, sì, via. Sì, perché però, noi rispettiamo, scusi, tutti, è una questione di educazione. Le sardine, capito, sono educate. Educate, va bene, ma non so, il primo punto del vostro manifesto qual è? Questa domanda è facile, il primo punto. Ma noi prima di tutto... Prima di tutto noi crediamo nella felicità, perché bisogna essere chiari fino in fondo. Cioè bisogna dire che non sei felice, sei triste. E non è bello essere tristi, invece è bello essere felici, perché la felicità, sì, è educata. Invece la tristezza non è mica educata. Cioè, se quindi c'è la felicità. Capito? Se, sì, c'è la felicità puoi fare tante cose, per esempio un giro in bicicletta, ascoltare una canzone che ti piace, anche preparare, sì, un'insalata di riso. Ma senza tonno, perché se c'è la felicità il tonno non serve, puoi lasciarlo nuotare libero nel mare mentre tu mangi con educazione il mais. Allora. Così, okay, diciamo che vogliamo lasciare il tonno lì, non faccio queste domande così invadenti, cioè, no, siamo tutti più felici se il tonno libera, nuota libero il nel tonno mare. Quindi il tonno primo punto deve manifesto nuotare, è il tonno. Quindi penso di aver risposto chiaramente molto, alla vostra domanda. Insomma. Vabbè, allora le chiedo, sì, allora, signor Elenio, voi sembravate in crisi, ovviamente non ci si poteva vedere, invece avete deciso di impegnarvi alle prossime regionali. Allora, sì, valutate di appoggiare il PD, cosa... Guardi, cioè, io voglio, questo voglio rispondere chiaramente, no? Sì, dire pane grazie al pane, vino al vino, ecco. E torno al tono, cosa, mi ha chiesto se vogliamo impegnarci nelle prossime regionali. Sì, sì. E qui voglio dirla giù dritta, capito? Cioè, quando metti un lenzuolo con gli angoli, quando metti un lenzuolo con gli angoli, difficilmente lo metti dal lato giusto al primo colpo. Il lato lungo del lenzuolo è sempre dalla parte corta del letto, no? E viceversa. Cos'è? E allora l'unica cosa da fare è girare il lenzuolo dall'altro lato. Può girare il materasso. Ma poi ti accorgi che c'è una cucitura in rilievo, no? E vuol dire che lo stai mettendo a rovescio il lenzuolo. E quello io è sono stato un po' diretto. No, non ho capito. Mi scuso, mi, sì, scuso, perché sono stato un po' diretto. Scusi, con la risposta. Ma sì, ma appoggiate, va, il PD? Appoggiate, cioè, il PD, sì o no? Allora, io voglio dire che ognuno deve essere libero, come il tonno che nuota nel mare, di decidere, sì, certo, se prendere un lenzuolo con gli angoli o senza angoli, ci mancherebbe, no? Cioè, noi preferiamo un lenzuolo con gli angoli perché rimane più tirato, ma, sì, rispettiamo anche chi sceglie il lenzuolo senza angoli e lo infila sotto il materasso, cioè, perché non conta tanto, capito, come si rifà il letto, ma rifarlo in, sì, che modo? Con educazione. Con gli angoli, ah no, con gli angoli pensavo, ma, cioè, siete un partito, allora guardi, stiamo chiudendo, siete un partito, sì, io, mi sta venendo mal di testa. Guarda, io voglio solo dire che le persone sono come un ombrello. Cioè, le persone mica possono aprirsi solo quando piove, perché a volte anche il primo sole può far più male della pioggia se non metti la protezione. E lo dico a tutti, sì, a nome dei dermatologi che credono in noi. Cioè, questo è quello che penso. Voglio dire un'altra cosa importante. Sì, cioè, vediamo. Che quando devi fare una scelta forte e precisa come quella di andare all'ombra, fare le parole crociate, comunque devi metterti la crema, sì, perché il sole, vabbè, si specchia nell'acqua, Elenio, e quindi ti abbronzi, Elenio, più facilmente, ma ti può anche, Elenio, scottare. Mariotti. Con Elenio questo Mariotti, credo di aver detto Sardina, tutto, cioè fin troppo, sì, ecco, esplicito. Ha detto tutto, il mio ha detto tutto. Da bambino era il blu, la ringraziamo, Sardina, la ringraziamo molto. Ci sentiamo bene la prossima volta, eh? A domani.